una notiziola di cui forse non tutti si saranno accorti, visto che è uscita in coincidenza col dibattito in Senato sulla fiducia al governo. Dunque, in coincidenza con tale dibattito è stato annunciato, io l'ho letto su Repubblica il 17 maggio, è stato annunciato che il prossimo 24 maggio, dopodomani, su proposta di un partito ormai definitivamente di governo, in Piazza dei Santi Apostoli a Roma alle 19 sarà costituito, con l'intervento delle associazioni degli ex combattenti e quelle degli esuli Giuliano-Dalmati, il comitato promotore della festa della patria per restituire l'Italia agli italiani. Presieduto dall'avvocato Francesco Carolio Grimaldi, candidato di Alleanza Nazionale alle elezioni europee, l'organismo in questione si pone come espressione della società civile e intende operare affinché a quella data, il 24 maggio, venga restituita la dignità e la solennità che storicamente le spettano. Alla cerimonia interverranno il ministro dei beni culturali Domenico Fisichella, il sottosegretario agli interni Maurizio Gasparri, il responsabile esteri di Alleanza Nazionale Mirko Tremaglia, quello dell'Istria della Dalmazia, il professor Sergio Boschiero, che chissà chi è, il professor Claudio Schwarzenberg, idem, e Federico Eichberg, presidente del circolo Forum AN, su cui confesso di essere scarsamente informato e di non desiderare ulteriori informazioni. A differenza del 25 aprile, ha dichiarato il Carolio Grimaldi, che è stato purtroppo celebrato con l'anacronistica divisione tra fascisti e antifascisti, vogliamo ripristinare una festa di unione. Per questo abbiamo invitato ex combattenti di tutte le parti in causa, sia della Repubblica Sociale che del Regno del Sud, e anche ex partigiani. Ora, a parte il fatto che mi piacerebbe proprio sapere quali ex partigiani parteciperanno a una simile festa dello spirito, mi permetterò di ricordare che la data del 24 maggio, a cui si progetta di restituire la dignità e la solennità che storicamente le spettano, è quella che segna l'entrata in guerra dell'Italia nel primo conflitto mondiale, la cosiddetta Grande Guerra. E se nessuno ha proprio niente in contrario, approfitterò del fatto di aver conseguito a suo tempo una regolare abilitazione all'insegnamento della storia nelle scuole di ogni ordine grado per ricordare due o tre particolari storici su quell'interessante episodio. Primo particolare. L'Italia, come si sa, entrò in guerra allora per decisione del governo in carica, in ottemperanza al cosiddetto Patto di Londra, un trattato firmato il precedente 26 aprile con le potenze dell'intesa, ma non reso noto al paese, e stipulato per di più contro l'espressa volontà della maggioranza del Parlamento, in cui le correnti neutraliste erano assolutamente prevalenti. La Camera avrebbe votato i poteri straordinari in caso di guerra al governo a cose ampiamente fatte. 2. L'Italia, anche questo è abbastanza noto, all'epoca era formalmente alleata con l'Austria e la Germania, i due paesi contro cui sarebbe in scesa in guerra il 24 maggio. L'alleanza in questione risaliva al 1882, ma era stata rinnovata più volte, l'ultima delle quali il 5 dicembre 1912. L'ultima stipula della relativa convenzione militare risaliva all'11 marzo 1914. L'Italia non era scesa in guerra a fianco degli imperi centrali quando era scoppiato il conflitto tra essi e Francia, Inghilterra e Russia alla fine del luglio 14, perché non vi era costretta ai termini dei trattati che erano di natura difensiva, ma l'alleanza sarebbe stata denunciata, l'alleanza con Austria e Germania sarebbe stata denunciata il 4 maggio, cioè 8 giorni dopo che era stato firmato il patto con i nuovi partner. 3. E soprattutto, quel conflitto si sarebbe concluso, dopo 3 anni, 6 mesi e 10 giorni di accaniti combattimenti, costando la bellezza di 600.000 morti, e avrebbe portato al ricongiungimento alla patria di un numero leggermente inferiore di cittadini redenti, un terzo abbondante dei quali, essendo di madrelingua tedesca, slovena o croata, non avevano la benché minima intenzione di essere redenti. La crisi economica e politica e sociale successiva sarebbe sfociata nel colpo di Stato del 22 ottobre 1922 con l'instaurazione di una dittatura fascista, le cui conseguenze saranno anacronistico ricordare, d'accordo, ma in fondo per esserci stata c'è stata e con tutta la buona volontà non possiamo far finta di no. Stando così le cose, è evidente che se c'è un significato da dare alla ricorrenza del 24 maggio, questo significato non può essere altro che di deplorazione, perché quella data, giratela come volete, ricorda soltanto la sopraffazione, il tradimento e il massacro, che non sono cose che valga la pena di festeggiare. Sopraffazione e tradimento da parte di una classe dirigente ottusa e incapace di capire quali sarebbero state le dimensioni e le conseguenze del conflitto, e massacro di una quantità di poveri cristi che in grandissima parte, non tutti ma quasi, alla classe dirigente non appartenevano neanche di striscio, ma ligi al loro dovere di cittadini erano andati lo stesso a farsi disciplinatamente mitragliare nelle trincee a ritmo continuo una classe di leva dopo l'altra. Che poi operazioni di questa fatta possano essere nobilitate come per decenni sono state nobilitate, occultandole sotto la sottocategorie come quella di patria, che è un'espressione retorica inventata appunto per mettere insieme dirigenti e diretti, e che una ricorrenza come il 24 maggio sia usata ovviamente in nome dell'unità come contraltare di altre ricorrenze sgradite, beh, è cosa abbastanza normale, sono cose che i fascisti fanno da sempre, oserei dire che loro sono stati inventati per questo. E non c'è niente di strano che lo facciano l'onorevole ministro dei beni culturali e l'onorevole sottosegretario agli interni, che appunto fascisti sono e per di più membri di un governo che per avere la fiducia alla Camera Alta ha dovuto ricorrere a una evidente forma di tradimento. Ma tradimenti a parte, c'è una cosa che va precisata: l'unità che costoro ci propongono di festeggiare, la conciliazione cui ostinatamente ci invitano, stringe sempre la stessa, è quella tra chi paga e chi incassa, tra chi le dà e chi le prende, tra chi comanda e chi obbedisce, tra chi le guerre le dichiara e chi va a combatterle e ci rimette la pelle. A questa unità, con permesso del signor ministro, francamente non siamo interessati.